come eravamo belli in queste vecchie foto. Due martelli anche se non battevamo chiodo. Io ed è scappati da un quartiere velenoso a differenza loro. Abbiamo trasformato l'eternità in oro. Laddove scegli o lavori per due spicci o spacci pezzi, per noi era una miniera di diamanti grezzi. Vestiti larghi, amici stretti, avevamo la visione anche senza farci funghetti. La fantasia viaggiava, celebrità da strada, ma i nostri non bastava come la busta paga. Non volevamo una storia italiana, con la prima che ci sta, che metti incinta e ci metti su casa. Non volevamo crescere, ma è successo tutto a un tratto. E fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. Anche morire giovani non puoi più, perché adesso c'hai la famiglia e dipende da te. Non volevamo crescere, che ansia e stress, però è un bel viaggio. Poi ce l'abbiamo fatta, all'inizio era una pacchia come Frank Sinatra con la mafia. Ma poi diventa un lavoro e il lavoro diventa ansia, tipo che ti senti solo mandare avanti la baracca. E poi darsi il 5, ma senza guardarsi in faccia, solo perché squadra che vince non si cambia. Ma se sei in gabbia prima o poi scoppi di rabbia, come un bimbo che si porta via la palla. Vaffanculo, basta! Così che dopo abbiamo scritto il manuale su come trasformare un socio in un rivale, su come misurare vita e successo. Che se a me va male godo perché a te va peggio. Non volevamo crescere, ma è successo tutto a un tratto. E fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. Anche morire giovani non puoi più, perché adesso c'hai la famiglia e dipende da te. Non volevamo crescere, che ansia e stress, però è un bel viaggio. Che viaggio, che viaggio, che viaggio, viaggio, che viaggio. E poi ci siamo odiati davvero, lei t'ha lasciato e ridevo. Tua mamma è volata in cielo e al funerale non c'ero. Un uomo è come il vino, il tempo lo impreziosisce, invece quello cattivo invecchiando si inacidisce. Quindi che l'orgoglio si fotta, siamo stati due coglioni, infatti funzioniamo in coppia. Nella vita gli amici li scegli, noi siamo quelli che si vogliono bene anche quando si fanno la guerra come i fratelli. Non volevamo crescere, ma è successo tutto a un tratto. E fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. Anche morire giovani non puoi più, perché adesso c'hai la famiglia e dipende da te. Non volevamo crescere, che ansia e stress, però è un bel viaggio.